Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Perché ci ricordiamo dei nostri militari solo in occasione di lutti o di vicende negative? Perché tutti, compresi i religiosi, hanno sempre pronto il loro esperto commento da diffondere. Commentare, solo questo riusciamo a fare. Mentre non riusciamo a far sentire forte e chiara la nostra presenza, il nostro appoggio tutti i giorni, 24 ore su 24, ai nostri, impegnati nelle varie missioni. Perché è di questo che hanno bisogno, e indirettamente, anche le loro famiglie, figli e mogli, sapere che la loro patria c'è. Come? Interessandoci alla loro attività giornaliera, cercando di sapere cosa fanno, perché sono lì, spiegarlo ai giovani, ai bambini, nelle scuole. E in questo anche i media si dovrebbero impegnare, con cronache quotidiane dai vari fronti distribuiti sul pianeta. Ah, se tante farfalline, cuoricini, scorpioncini tatuati fossero tricolori. Del resto, nessuno, ma proprio nessuno, può dire come sarebbe il mondo oggi se dopo l'11 settembre 2001 l'Occidente non avesse creato un avamposto in Iraq e Afghanistan. E su questo sfido chiunque a dare una risposta certa. Pensiamo quindi ogni tanto che ci sono degli italiani in divisa che lavorano per proteggerci, qualunque sia il nostro lavoro in patria. Elena. Chiedo venia per la mia ingenuità, ma non capisco perché la sinistra si stia stracciando le vesti e perché la senatrice Finocchiaro strilli, scandalizzata come una vecchia zia che sente il turpiloquio del nipote, contro lo scudo fiscale, un provvedimento concertato a livello internazionale al G20 e che, tuttavia, allo stato degli atti, non comprende nemmeno la sanatoria per tutti i reati tributari e societari pregressi ed esclude anche i procedimenti ora in corso. Nella passata legislatura non hanno forse approvato come atto di clemenza niente meno che un condono penale di ben 3 anni, di cui hanno beneficiato anche gli assassini? Mi sorge un dubbio. Forse per la sinistra l'evasione fiscale è più grave dell'omicidio, perché crimen lese maiestatis toglie soldi allo Stato, ovvero ai politici e a loro stessi. Alessandro. Caro direttore, ho sentito l'intervento in Senato del relatore dell'emendamento relativo all'estensione dello scudo fiscale alle società. Il fine giustifica i mezzi, si potrebbe commentare in estrema sintesi. Perché dannarsi per ottenere un così minimo obiettivo, ovvero un rientro stimato di 50-60 miliardi anonimi che renderanno una tantum di 2 o 3 miliardi, quando c'è da aggredire un'economia in nero capace di generare 200 miliardi all'anno di fatturato, che potrebbero rendere con un'aliquota media del 30% 60 miliardi di entrate fiscali all'anno. Forse perché non si vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani? Agostino. Caro direttore, sono un piccolo imprenditore che paga le tasse. Questo scudo fiscale mi sta dando molto allo stomaco, è un regalo ai disonesti e una presa in giro agli onesti. Però, pensandoci bene e mordendosi le labbra, per paradosso, forse saranno proprio i capitali riportati in Italia a risollevarci dalla crisi. È una magra consolazione, ma cosa ci possiamo fare? Rudy. Scrivo a proposito dello scudo fiscale. Si può capire la necessità di incassare da parte dello Stato, ma non dovrebbe essere fatto in questo modo, ovvero solo 5% spalmato su 5 anni e amnistia di vari reati come falso in bilancio, eccetera. È un premio ai disonesti, ai furbi, a coloro che danneggiano la comunità, sia perché non pagano le tasse, sia perché dichiarando redditi bassi o non dichiarando nulla, godono di benefici sottraendoli ad altri più meritevoli di loro. Quale lavoratore dipendente ho iniziato a pagare le tasse fino all'ultimo centesimo quando avevo 19 anni. Ne sono passati 52 e come pensionato pago tutto fino all'ultimo centesimo. Lo Stato, attraverso i suoi longamanus, mi controlla ogni anno gli scontrini fiscali per l'acquisto di farmaci uno per uno, depennando eventuali parafarmaci. Siamo quasi al ridicolo. Ritengo l'ennesimo scudo fiscale iniquo e offensivo per coloro, e sono tanti, che le tasse le pagano sempre al 100%. Questo è anche un regalo fatto alla mafia, che può così riciclare. Una vergogna che squalifica l'azione di questo governo. Giorgio, Milano. Egregio direttore, sto seguendo con interesse il dibattito su quello che viene banalizzato dalla stampa come dialetto veneto nelle scuole. Vorrei premettere che mi considero il prototipo di Homo Europaeus. Parlo correttamente inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prima lingua straniera da me imparata è stata l'italiano, in quanto fino all'età scolastica e anche per molto tempo dopo mi sono espresso unicamente nella mia lingua madre. Quando vado all'estero mi sorprendo, dopo alcuni giorni di permanenza, a pensare nella lingua del posto, per le lingue che conosco naturalmente, e ad acquisire le abitudini del luogo. Mi considero di cultura italiana e italiano a tutti gli effetti, e apprezzo tutte le altre culture, ma mi arrabbio quando si banalizza la lingua veneta. Vorrei ricordare a tutti quelli che fanno retorica su questo argomento che chi definisce dialetto il veneto o è in malafede o è ignorante. Il veneto è una lingua parlata da circa 5 milioni di persone in Italia, in Croazia, in Slovenia e nelle enclave venete del mondo, soprattutto in Brasile, dove il veneto viene definito Talian e dove ci sono radio e TV in questa lingua. La lingua veneta era parlata correntemente nelle isole dell'Egeo fino a Istanbul ed è stata lingua commerciale fino alla caduta della Repubblica. Sempre per gli amanti della lingua italiana vorrei precisare che circa il 30% dei veneti, in alcune aree si arriva al 60%, non riescono ad esprimersi in italiano in modo sufficiente e che per il 70% il veneto è la lingua parlata in casa. Marco Polo, Cristoforo Colombo e Goldoni non conoscevano l'italiano. Dante stesso non scriveva in italiano, ma nella Vulgata toscana. Disconoscere questa realtà è pura retorica. Se non definiamo lingua il veneto, come potremo definire lingue l'ungherese, lo sloveno, il croato, il lituano, l'estone e molte altre lingue parlate da un numero inferiore di persone? Assistiamo nel Veneto a un fenomeno stranissimo di bilinguismo, che è difficilmente reperibile in altre parti del mondo. I nonni e i padri parlano una lingua diversa dei rispettivi nipoti e dai figli. Io credo che, senza arrivare alle esagerazioni di tradurre tutti gli atti pubblici, sia legittimo che i veneti si riapproprino della loro toponomastica e chiedano che nelle scuole venga insegnata la storia, la cultura e la lingua locale, non perché gli ipotetici studenti incominciano obbligatoriamente a riparlare la lingua dei loro padri, ma perché conoscano meglio le loro radici. Piero, Verona. Grazie, caro Piero, per la sua appassionata difesa dell'identità veneta. Un'identità importante, non lo dico perché sono anch'io originario del Veneto. Sono importanti tutte le identità locali e regionali, tutto ciò che fa da supporto alle relazioni tra le persone all'interno dell'ambito locale e territoriale. Non voglio addentrarmi nella discussione dei confini tra lingua e dialetto. È una discussione che lascio volentieri alle sottili analisi dei linguisti e dei letterati. Vorrei solo che il dibattito sulla lingua e sui dialetti non fosse preda delle divisioni e delle etichettature ideologiche. Difendere il Veneto come espressione linguistica, così come i tanti dialetti lombardi, il romanesco, il napoletano, il siciliano, e non posso certo citare tutti, non dovrebbe essere né di destra né di sinistra. Dovrebbe appartenere al sano buonsenso, la volontà di difendere le proprie radici e far sì che anche sotto forma del modo di parlare l'Italia sia un paese unito e valorizzato, proprio per le diversità. Nella letteratura italiana ci sono Goldoni e Trilussa, due autori da cui dovremmo tutti imparare, soprattutto per il loro modo, molto elegante, di far sorridere. Caro direttore, la scorsa notte ho visto un film dove il protagonista, Silvio Berlusconi, si rendeva conto che gli scandaletti personali, più delle questioni politiche, gli avrebbero impedito di essere proclamato re d'Italia, oltre che vincere una decina di premi Nobel. A quel punto, consigliato da Bondi, decideva di fare outing, convocava una conferenza stampa universale, durante la quale si pentiva di aver condotto una parte della sua vita in modo libertino. Ammetteva che soltanto dopo essere stato lasciato da Veronica si era reso veramente conto dell'importanza della famiglia e dei valori etici e morali. A Bondi si univano anche Cicchitto, Lupi e Formigoni, che gli consigliavano di promulgare delle leggi a favore della famiglia e di fare accettare una sua confessione direttamente da parte del Santo Padre. Casini, Rutelli, Labindi e Labinetti si stracciavano le vesti dibattendo sulla veridicità della confessione. Poi, esausti, gli consigliavano, come atto finale, di ritirarsi in convento per 15 giorni in meditazione. All'uscita del convento gli veniva piazzata sulla testa un'aureola con luci a basso consumo e diventava re d'Italia. Già dopo pochi giorni, dal suo trono, dichiarava di aver acquisito il diritto all'immortalità, per cui, avendo procurato un mucchio di conversioni al cattolicesimo, iniziava il suo percorso verso il papato. Il film si chiudeva con l'inquietante dubbio su questo secondo obiettivo e appariva la scritta «Alla prossima puntata». Mi sono svegliato enormemente sudato ripensando alla cotoletta fritta della sera prima, ma poi, ascoltandovi, ho appreso dell'incontro tra Berlusconi e il Papa. Vi prego, vi imploro, ditemi che era soltanto un incubo alimentare. Roberto. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.